La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Piccola città, bastardo posto, appena nato ti compresi, ho fuffato che in tre mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbia e fumo, non so darvi il profumo del ricordo. Questa è la storia di un ragazzino magro, alto, figlio di un dolore, di una perdita. Questa è la storia di un ragazzo che cresce in fretta, nella provincia milanese, che è come un sud spostato con la forza nella nebbia. Perché Legnano, 20 chilometri da Milano, negli anni 70 è il posto di giovani coppie arrivate dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate, da guerra antica, mia nemica strana, sei lontana coi peccati, fra macerie e fra giochi consumati, dentro al Florida. 100 finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria. Coppie che affittano case in eco canone, nebbia, parole del nord sconosciute, porte sbattute spesso in faccia, orgoglio, dignità, viaggi di fantasia, notti d'amore, da cui nascono figli che parlano con accenti diversi. Figli del nord, nati già a metà strada. Questa è la storia di molti di noi e questa è la storia di Max Pisu. Ma la mia infanzia è stata quella della provincia, quindi fatta appunto dei cortili, del campetto dove si giocava a pallone, un sacco di bambini, di ragazzini di diverse provenienze, anche regionali, infatti io papà sardo, la mamma pugliese, però appunto era di Legnano, c'era pochissima gente, erano tutti emigrati, quindi insomma è una realtà così. Poi le scuole, ho iniziato a vivere a Milano quando ho fatto le scuole superiori, perché ho fatto odonto tecnico a Milano, quindi da lì è stata la mia vita e il rapporto con Milano, vita da pendolare, insomma, un po'. E com'è stato arrivare a Milano da ragazzino, diciamo così, sicuramente diverso da quello che potrebbe essere adesso. Io ho un figlio che fa quest'anno la prima superiore. Pensare a lui che prende il pullman da Legnano e va a quartoggiare a scuola come ci andavo io, forse adesso aveva un po' di timore, invece allora insomma eravamo già più svegli, insomma eravamo più. Adesso i genitori portano i figli a scuola in macchina, anche un po' entrano in classe, quindi è un po' diverso, però mi ha permesso il fatto di conoscere, di andare a Milano, di frequentarla poi anche col lavoro, dopo la scuola, poi appunto con gli spettacoli. Mi ha aperto un mondo diverso rispetto a quello che è la provincia, insomma. Legnano, i cortili, la Juventus, i viaggi verso Milano sono solo l'inizio di questa storia che ha per protagonista un ragazzino, Max Pisu, costretto dalla vita a crescere in fretta, ma che non dimentica mai di sorridere, anche quando sarebbe molto più facile piangere. Io ho due sorelle più grandi di me, una che ha 10 anni più di me e l'altra ne ha 12 più di me, quindi sono arrivato dopo 10 anni e niente, poi a 10 anni sono rimasto solo con mia mamma e mio papà, poi mio papà invece è morto che ne avevo 14, quindi proprio quando sono andato in prima superiore, e quindi sono rimasto con la mamma. E questa presenza femminile molto forte, secondo te, ha inciso anche nel tuo percorso artistico? Nel senso, forse ha inciso di più, non so, lei è una mamma molto apprensiva, cioè nel senso, apprensiva come tutte le mamme, poi è rimasta vedova, così mi ha sempre detto sei il bastone della mia vecchiaia, quindi mi sentivo anche, sono cresciuto in fretta, quando ti senti diventi capofamiglia subito, diventi un ometto, quindi mi ha dato più responsabilità, mi ha dato un maggior senso del dovere, che poi mi è servito per questo lavoro, per il proseguo della mia adolescenza e la gioventù. Però mi è servito in diverse occasioni il fatto di avere provato una sofferenza forte, poi al resto ci bagli un po' poco, no? Nel senso che le cose importanti ti rendi conto che sono quelle lì, quelle ti mancano, quindi è stata una vera No, che è quella la vera forma di crescita, dico, in quel dolore così forte, no? 14 anni, sì. Uno poi è obbligato a diventare grande. Sei obbligato per forza, sì, anche economicamente, tutto, perché comunque io, mia madre e mio padre vivevamo con la pensione di mio padre, quindi è morto lui, siamo andati anche con una pensione a fare la scuola superiore, non prima, quindi sono arrivato fino al diploma, così, poi dopo ho dovuto andare a fare un altro lavoro, insomma. Ma e perché hai scelto di fare il comico? Come è arrivata a questa decisione? Ma perché io frequentavo l'oratorio e lì c'era questo gruppo teatro di cui facevo parte quando avevo 14-15 anni e ho iniziato a frequentarlo appunto dopo che è morto, che è mancato mio padre. Ho frequentato questo oratorio, questa parrocchia dove c'era il gruppo teatrale, quindi sono entrato a far parte di quello, poi dopo crescendo gli spettacoli li organizzavo io, poi verso i 20 anni, 21 così, ho iniziato a fare dei corsi di recitazione e poi niente, poi sono partito con il cabaret. E sua mamma cosa diceva? Cioè aveva fiducia nel suo talento o invece era preoccupata? No, perché io comunque poi ho fatto due lavori, facevo il magazziniere e il comico fino a dopo che mi sono sposato, quindi non ho mai lasciato, cioè la mentalità del lavoro sicuro, non ho mai lasciato il posto di lavoro per fare solo cabaret fino a che non è arrivata la TV. Con Zelig. Esatto, quindi io fino al 98, che ero già sposato e stava nascendo mio figlio, allora lì ho deciso di lasciare il lavoro e proseguire solo con il cabaret, insomma. Anche perché lavoravo di giorno, poi la sera andavo a fare gli spettacoli e mio figlio non l'avrei neanche mai visto, quindi. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiudi gli occhi lei lo sa. Stella di periferie, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Il debutto a Zelig segna subito il successo. Pisu inventa Tarcisio, un personaggio dolce, stralunato, un po' cattivo, un ragazzino involontariamente dispettoso, intrappolato tra l'oratorio e la provincia. La provincia, alla fine, ha sempre qualcosa da dire, anche quando vuol far ridere, è sempre una risata un po' amara. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. La prima volta. 1, 2, 3. Hello? Oh, Buenos Aires. Ma io bene, Lux. E tu, come Tel Aviv? Mia sorella, Istanbul. No, è andata con mia Madrid. È andata a Finlandia. No, mi ha detto che c'è un Belgrado. Mi ha detto Stoccarda, Sarajevo, ma. Ha avuto un Bombay. Combina Uruguay e Paraguay, Corea Nord, Corea Sud, aveva la Casa Blanca, adesso è tutta croata. Non Manchester, no? Ha detto, perché non Manchester? Hong Kong, Angola. Sono pieno di Qatar. Era tutto Bordeaux, c'era sull'acqua che Bolivia, Nantes, l'Oslo Bucarest, Nantes, le ha fatto un Amburgo della Calcutta, Nantes, mangia nemmeno un Pechino, no, Stoccolma, sì, ha fatto anche di Beirut, speriamo che non ci caga, se no è un casino, con chi? Marocco, Franco, forte quello lì, No, l'ha mollato. Lui era sempre Lourdes, aveva la Barbados, aveva il pelo un po' neso. le puzzavano le Seychelles. Sudan. Sì, lui danzica sui Cuba, sì. Frequenta tutte le donnacce, le cecoslo, vacche. No, lei ha mollato lui. Lui l'ha presa malese, buttarsi dai Balcani. E lei glielo diceva, Madagascar, Madagascar, che ti fai malindi. E lui, se scendo te le Budapest, ti do una Manhattan sul Cap Horn che ti viene una Bosnia che ti fa mali. E quando l'ha presa la Macerata. Dubai, No, adesso è con un altro, sì, Mauritius. No, è Berlino, sì. È un Cairo ragazzo, sì, lavora in Bangkok. Lei è innamorata Persia, eh. Adesso si è pitturata l'Ungheria, si è tagliata la Francia, si è fatta il Capo Verde. No, anche mia sorella è Bon. Anzi, è Lisbona mia sorella, eh. Adesso ti saluto, Vaduz, Buenos Aires, Hawaii, Hawaii, Hawaii. Questa è la storia di Max Pisu, un ragazzo di Legnano che debutta all'oratorio e dall'oratorio recupera il personaggio che lo renderà noto a tutti, Tarcisio. Tarcisio è il ragazzino che porta occhiali dalla montatura grossa e nera, in cappello schiacciato in testa, ingenuo e cattivo, figlio di una cultura cattolica e provinciale. Ancora oggi quel Tarcisio Pisu se lo porta dietro, anche quando, un po' per scherzo, ricalca l'uomo medio italiano, parlando della Juve come di una donna amata immensamente. È proprio un tifoso juventino sfegatato, no? Quando le cose sono quasi indifendibili. Ma da quando è tifoso juventino? Ah, ci diamo del lei, sì, eh? Ah, no, diamoci del tuo. Ah, ok. Ok. No, sì, da sempre, praticamente. Da quando ero piccolo, nel cortile dove abitavo io, eravamo in tre nella mia scala, quindi uno era milanista, l'altro interista e io juventino. Quindi siamo divisi un pochino, quindi già lì sono rimasto juventino. Ma ero piccolo, parlo di 4 anni. Quindi. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Pisu a 14 anni perde il padre. È un dolore grande, forte, che segna la vita, che lo obbliga a crescere e a faticare per cercarsi un posticino nel mondo. E lo trova quel posto, prima che sul palco lo trova in se stesso. È un luogo buono, caldo, da cui osservare tutto. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sulle aiuole. Leviamovi al tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. La prima volta di Max Pisu forse inizia qui. Imitare gli altri, osservarli, raccontarli con ironia è l'arma per avanzare nella vita. Un talento, quello di Max Pisu, che nel 97 lo porta a vincere il premio Ugo Tognazzi. Nel 2003 vincerà il premio Walter Chiari e tanti altri riconoscimenti verranno negli anni a seguire. Pisu è un uomo ora, ha un figlio e può chiudere il cerchio e vivere del teatro. Non ci sei. Sì, è cambiato per quello. Cioè, sono riuscito finalmente a vivere di un lavoro che era la mia passione, quindi è stata la cosa più bella. E se lo ricorda, cioè la prima volta che è salita sul palco di Zelig, cioè che emozione ha provato? Ma a Zelig, prima di andare in TV, Zelig era un locale di cabaret, quindi già facevo gli spettacoli lì, E poi è arrivata la televisione, appunto lì c'era la coincidenza che Zelig nel 96 festeggiava i suoi 10 anni e hanno fatto una puntata celebrativa in TV. L'anno dopo, nel 97, ne hanno fatte 4 e poi nel 98 sono arrivato anch'io e da lì, cioè ci sono andato anche in trasmissione e da lì poi è partito tutto. Beh, le emozioni della TV sicuramente non era poi tanto diverso da quello che facciamo nelle serate normali, perché comunque Zelig era un locale di cabaret e le telecamere entravano a riprendere, quindi eravamo nel nostro ambiente, col pubblico vero, e quindi cambiava poco. Sapevi che ti guardavano un tot di persone, che allora non erano i numeri di adesso, ma erano 1 milione di persone che guardavano la terza serata, quindi... Però ti seguivano a teatro, quelli venivano a vederti, invece adesso è un po' cambiato. Le volevo chiedere questa cosa, in Italia stanno letteralmente chiudendo quasi tutti i teatri, cioè sta succedendo qualcosa di terribile, nel silenzio più totale. No, io penso che sia sia una catena, nel senso che ai tempi quando facevamo teatro, i teatri erano pieni, la gente andava a teatro, andava al ristorante a fianco a mangiare, magari 3-4 persone. Oggi con i costi che ci sono e con questa crisi che non finisce mai, fa sì che i teatri siano vuoti, quindi spinge anche i gestori dei teatri, i direttori a chiuderli e farne altro. Era stato così per il CIAC, e lì era stato già un primo segnale, il CIAC di Via San Gallo a Milano, che era per noi era il nostro tempio, era il nostro, gli spettacoli comici venivano fatti tutti lì, un teatro da 800 persone sempre pieno. E adesso non so se penso che sia un residence, è diventato un residence, il Teatro delle Erbe è diventato un parcheggio, non so, fa rabbia fa rabbia, soprattutto perché non si riesce, come dici tu, non si riesce a fare niente, non si riesce a far invertire questa tendenza. The cold clean air, it sets my boot heels on fire. But if I told you I'd forgotten my past, I'd be a motherless liar. A woman of the street, a woman of the world, a hell-bent model of the devil's girl. I'm gonna hold my head up high and take a walk in the sun. Max Pisu è ormai cresciuto, è un attore bravo, capace di passare da un ruolo ad un altro. Debutterà a teatro tra pochi giorni, il 7 novembre, assieme ad Alessandra Faiella in Nudi e Crudi. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e per le mail che mi scrivete all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Se volete potete riascoltarci in podcast andando sul sito di Radio 24 e cercando la nostra pagina. Un saluto da Cristina Carpinelli, ci sentiamo domenica prossima, sempre attorno alle 13. Grazie a Filippo Oreggi in regia. Ciao a tutti.